Abbiamo già ritrovato la piazza piena, riempita di studenti di Monteverde e Bravetta. Quindi adesso stiamo aspettando le scuole di Prati che ci dovrebbero raggiungere a breve. E niente, siamo già compattati qua, ma sono davvero tanti. Senti, quanti siete più o meno? Non saprei un numero preciso, però siamo stretti a Piazza di Lusso, è proprio piena piena. Adesso quando arriveranno i studenti di Prati dovranno stare per forza in mezzo alla strada, come è successo nel Virgilio. Quindi è proprio piena piena, non so, saranno 3.000 almeno. Senti, voi ora avete intenzione di partire in corteo da lì? Sì, adesso partiremo in corteo, sicuramente bloccheremo il Lungotevere. Poi adesso dovremo di organizzare bene il percorso, ma con questi numeri non si può non bloccare le arterie principali della città. Certo. C'è molta polizia? Attualmente non abbiamo visto uno in divisa. Probabilmente in mezzo a noi adesso verranno a salutarci i simpatici. Va bene. Senti, allora, naturalmente i microfoni sono aperti, invitiamo l'appuntamento è quello di venire ancora a Piazza Trilussa. Sì. Sembra che state... Ci metterete un po' comunque a muovere. Sì, un pochino ancora ci vorrà, almeno una mezz'oretta, considerando dobbiamo aspettare gli altri studenti. Comunque, quando ci muoveremo saremo... partiremo abbastanza decisi, in modo tale comunque... il tempo stesso da attendere si possa ritrovare nelle strade della città. Senti, ma le scuole che stanno partecipando hanno anche occupato? Quasi tutte le scuole che stanno qui hanno occupato. Attualmente quelle che sono ancora occupate e qua presenti sono il Virgilio e il Caravillani, che però dovrebbero lasciare le loro occupazioni adesso. E le altre scuole occupate erano di altre zone, quindi probabilmente ci raggiungeranno più tardi. In più c'è il Cavour che è in assemblea e ci raggiungerà successivamente, e vedremo. Senti una cosa, nel caso in cui dovesse passare diciamo il DDL, voi avete intenzione di continuare le mobilitazioni a partire da oggi oppure diciamo c'è una pausa? Se dovesse passare cerchiamo di continuare le mobilitazioni sin da subito. Dopo le manifestazioni di oggi vedremo come comportarci domani. Noi abbiamo già lasciato la nostra scuola in questo momento solo con le persone per mantenere l'occupazione. Comunque entro oggi dovremo concludere, poi non sappiamo, vediamo che cosa succederà oggi. In base a quello valuteremo se continuare la mobilitazione dentro e fuori scuola o solamente fuori. Comunque dalla nostra occupazione sono uscite... parecchi percorsi aperti e si è ottenuto la creazione di questo gruppo di quasi la totalità della scuola partecipando in ogni modo sia alle manifestazioni sia alle mobilitazioni, quindi abbiamo una lettura positiva e vedremo come tirare avanti. Mi sembra che anche dal punto di vista politico sia nato un bel movimento piuttosto avanzato da parte degli studenti medi, anche politicamente anche forse più avanti di quello dell'università. Sì, perché abbiamo si è visto sabato in piazza, comunque siamo riusciti a creare da soli un corteo non autorizzato, molto partecipato, riuscendo a passare la polizia che ci voleva bloccare più volte, mantenendo la nostra autonomia dal sindacato e ritrovandoci pochi giorni dopo durante i giorni di lezione normale in piazza dell'Usta riempiendola un'altra volta, quindi insomma è una lettura più che positiva della visione politica del movimento degli studenti medi, che se l'altro anno è stato un po' più fiacco e durante l'onda aveva avuto dei livelli più alti, attualmente resta comunque una delle parti più attive e elevate del movimento. Comunque si è mosso dall'inizio di ottobre, mentre l'università si è attivata un po' dopo. Sì, poi mi sembra il Virgilio, non vorrei sbagliare, si è occupato da 2 settimane ormai. Anche sì, oggi più. È il 14° giorno. Complimenti. Quindi insomma, e poi tutte le altre occupazioni sotto i 3 giorni non sono scese. Certo. Va bene, ti ringrazio, naturalmente qualsiasi cosa chiamate, noi sicuramente vi richiameremo nel corso della mattinata per vedere un po' come sta procedendo. Perfetto, ci sentiamo fra un po'. Un abbraccio, buonanotte. Saluti a tutti, ciao. Ciao.